resterò vicino a te per tutta la vita. E tu non dovrai mancarmi mai per tutta la vita. Posso amare solo te. Solo te.